Di Calabria perché mio papà ha fatto la guerra, capito? E poi si sono spostati da una parte all'altra e i genitori l'hanno portato al nostro paese, a Caraffa, in Calabria, ma In non era lì, provincia? provincia di Catanzaro. Vicino, ok. Ecco, vedi, ognuno abbiamo la nostra storia. Quanti anni ha? Certo. Quanti anni ha lei? Sono dal 47, Quindi del 47. 76 anni. Ecco, hai visto? Da quanto tempo vive qua Alizana? Alizana, Sì. Alizana 2 anni, no? O tre? 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo. Ah, quindi vive recentemente. Io sono arrestata perché non sto tanto bene, capito? Tanto bene. E allora non mi ricordo più Poverina. le cose come me le ricordavo una volta. Sì, l'età anche. E allora mi deve aiutare lei, la mia figlia.